Vi ricordo che siete sempre Ascolto di Up con Nicky e Andrea e abbiamo terminato la prima parte con un brano sempre tratto da Filmworks di Alberto Turba. In questo caso era Blue Velvet, la cover del brano di Bernie Wayne e Lee Morris, e continuiamo e abbiamo già in sottofondo invece una versione live di Blues Dream di Bill Frisell, tratto dalla playlist propostaci da Alberto Turra, e poi continueremo con l'ascolto dell'intervista. Ok. E per quanto riguarda i tuoi live qua in zona, visto che siamo in Friuli, ti è capitato di passare dalle nostre parti o in futuro? Sì, mi è capitato abbastanza spesso di suonare dalle vostre parti, quando ho suonato a Udine Jazz, ho suonato con Roy Paci nel suo progetto Corleone, e poi ho suonato abbastanza spesso con Capovilla nel tour del suo progetto solista. E sì, insomma, poi il Triveneto in generale è abbastanza sempre casa per me, perché le mie origini, i miei avi arrivano da quelle parti, quindi ci torno sempre volentieri. La cosa più vicina che ho è per ora, per il tour di Filmworks, sono 3 date a Padova, 27, 28, 29 o 28, 29, 30, è una cosa che ancora stiamo cercando di capire. Sicuramente 28, 29. Aprile, Di sicuro. aprile. E Magari. poi le altre date sono sul sito o su Facebook, si trovano, insomma. Thank you. detto delle cose molto curiose nel libretto, per esempio, che hai corso nudo per Milano dipinto d'oro. Era una performance artistica oppure uno sfogo così No, temporaneo? assolutamente sì. E poi è una crasi che Filippo ha fatto di un racconto che gli fece appunto circa 15 anni fa. Ah. Era in verità erano due esperienze diverse che poi lui ha messo insieme. Però sì, trattasi di esperienze artistiche, sì. Lui si ricordava questa cosa qua, quando ha detto, dai, quando ho chiesto appunto di scrivere due righe ad amici, perché poi sono sostanzialmente amici, lui si ricordava di aver fatto con me, proprio in quel periodo in cui facemmo il tributo a Demetrio Stratos insieme. Chiacchieravamo e deve essere venuto, hanno raccontato un po' di cose mentre lui le ha messe insieme. Il fatto che le abbia messe insieme, se le ricordi così, per me sono dichiarabili come reali. Quindi ho riportato esattamente quello che ha scritto Filippo. Mi sembrava molto divertente, così come quello che ha scritto Ago Panini, il regista, rispetto all'esperienza che facciamo in tour, perché siamo stati in tour insieme tanti anni fa. E si ricorda insomma delle cose divertenti, e quindi è divertente come se le ricorda lui, ecco, e quindi ho voluto tenere fede a quello che mi hanno scritto Ah sì, la frase è sul concerto di Piazza del San 1º Giovanni. maggio. sì Sì, sì sì, sì sì. Si è piegato il sì, berretto e ha detto: cazzo me ne frega, io mi chiamo Nazareno. sì. Esatto, sono tutti ricordi di cui non mi prendo la responsabilità. E sono tutte cose scritte in modo che mi ha fatto talmente ridere che le ho riportate esattamente come mi hanno restituito loro, insomma. Sì, beh, è interessante anche la traduzione in inglese beh, ovviamente sì, tra l'altro il CD spero che verrà distribuito anche all'estero perché insomma, merita assolutamente un pubblico che vada oltre quello italiano perché Ma sì, io è Fermai, universale. certo, Fermai normalmente distribuisce anche all'estero, Europa, Giappone, Stati Uniti, sì, dipende sempre da quanto viene richiesto, però in generale sì, è abbastanza, loro normalmente lo fanno, per cui sì, spero che piaccia anche all'estero, insomma. qui parli anche di Stevie, Vernon Reid, quindi immagino Stevie Ray Vaughan, Muddy Waters e Vernon Reid come tue influenze. Sì, sono proprio le influenze, quelle arcaiche, quelle di ragazzino, ero un ragazzino, un preadolescente tempestato da amici metallari e io ero assolutamente fuori da quella cosa lì. Suonavo, adoravo suonare da subito, da ragazzino, ma non riuscivo a inserirmi in tutto quel contesto metal che la mia generazione ha vissuto nei primi anni 90, insomma, fine 80, per cui che però appunto con molta sincerità nel momento in cui sono entrato a suonare in questa band con cui suonavo con Aldo, il fatto di avere delle ascendenze blues è stata una cosa che è piaciuta molto, insomma. Quindi, sì, questi sono i miei riferimenti di ragazzino, che ancora ho lì, non si sposteranno mai, certo. Eh sì, sono dei punti saldi come appunto gli Area e Demetrio Stratos, il concerto omaggio che avete fatto, direi che sono le colonne della musica che ascoltiamo ancora adesso, insomma. Direi di sì, Sì. direi di sì. Anche se tu mi hai proposto una playlist in cui ci sono dei nomi, a parte Meshuggah e Bill Frisell che conoscevo bene. Nomi che non o che avevo sentito nominare, ma non, che non sono, non ho ancora approfondito, ma che ascolteremo durante la trasmissione, come Soweto Kinch Trio, Two Foot Yard e Nnamdi Ogbonnaia. Ogbonnaia, sì. Sì, cosa ci sai dire di questi autori? Bah, Soweto Kinch, secondo me, è un jazzista inglese, nato a Londra ma poi cresciuto a Birmingham, per cui c'è questa doppia, dire, natività, perché si sente di tutti e due i posti. È un artista di una bravura eccezionale, con un'attenzione proprio direi filologica all'art bop, però è anche un MC, rappa a dei livelli incredibili, fa le battle in giro per le strade, ed è veramente fantastico. È uno dei jazzisti giovani in termini internazionali che mi piacciono di più, per cui i suoi concerti sono spesso sono cioè subiscono influenze, sono spesso in quartetto, il suono è assolutamente tradizionale, non so, alto, clarinetto, basso, contrabbasso, batteria, però ad un certo punto appunto partono dei blast beat piuttosto che sempre suonati, sempre tutto suonato, in cui lui rappa e dice delle altre cose, senza soluzione di continuità, cioè non c'è nessun problema. Non è una cosa nuova, non è un concetto nuovo, perché già negli anni 80-90 questa cosa si è cercato di farla, ma è la fluidità e la naturalezza con cui viene portata la proposta di Soweto Kinch che mi entusiasma. My name's Soweto Kinch. I'm a jazz saxophonist and an MC. I was born in London, but I moved to Birmingham when I was very young, so I've grown up and spent most of my life living in the city of Birmingham. It's got a very vibrant jazz scene there as well, and I think I cut my teeth both in Birmingham and in London. I was part of a group called the Tomorrow's Warriors, and we played every single week at the Jazz Cafe in London, in Camden. So growing up, if you like hearing musicians like Jason Yard and Dennis Baptiste in that kind of immediate circle of Tomorrow's Warriors that really inspired me, and of course Byron Wallen, and then the older statesmen, if you like, the musicians who were already established too, I'd got into jazz because of people like Courtney Pine and Steve Williamson and Julian Joseph. So London was a very vibrant scene. But I also started up a jam session called the Live Box, which is still happening in Birmingham. And that was an opportunity for me to meet local jazz musicians there and to develop, I think, my own approach to using hip hop and jazz as well. You know, I think both environments have made me the musician I am now. I think in some senses it's easy to recognize forms of music that are from England and that have influenced the way that we play jazz. It's less easy to have an archetypal way for a British person to play jazz. I mean, we've been playing swing and bebop here since the 50s, and I look back at people like Joe Harriet, and even before him, people like Bertie King, and just hear great jazz musicians but with the West Indian Caribbean influence, which is very strong here in British music, and with their own kind of take. And a lot of that's environmental. So, yeah, if you listen between the notes, you hear things that are peculiarly British, but in the main, it's going to be jazz music. On the flip side, if you listen to things like drum and bass or grime or UK hip hop, you know, that certainly influenced the way that I play jazz, and that those are kind of forms of music or approaches to playing African-American art music that are uniquely British in a way. Just like raps around, because I'm on the track and it's that profound. You could say that my mind is jazzed about. It's just how we do. I represent when I'm representing in England or in VN. Yes, that's where we come from. We leave the numbskulls, numb drum, because we represent in West London. So that's the way we acting. That's the way we just relaxing. Chilling in this factory in West Acton. That's just how it happens, because we on it. I'll be up on the track of freestyles, it's on topic. You know we ain't forgot it, because we hotter than tropics. As we on the microphone, flexing the fiber optics. If you lost it, we driving like a crash up in the cockpit. You just want to watch it, because I break your coccyx. We just sick though, because we come to self disgrace. Representing with the sax and the double bass. S is on the case, I will never miss. Just be throwing freestyles off of a precipice. Yo, because I must rap it better. Me, Big G, plus the keys are called Reza. Straight up in the background, and I relax now. I got a fusty afro, I put my hat down. That's what happens, yo, my mic's never behave. I be representing, this morning I had me a shave. I rap fresher, just to rap for pleasure. Caught the train this morning from Manchester. Still nice though, and absurd with strange. When I nearly missed me, the Virgin train. Yo, I'm nice over nice, vocally precise. Even though the train ticket was overpriced. I'm in it though, on the microphone. On the track, you know I'll never spend the night alone. I guess I'm that kind of guy, rapping free. And now I feel like I'm freestyling in a factory. Because that's the way we rip it. I got the freestyle ticket, we are making jazz widgets for export. Try to test me, get your neck caught. Yo, yes, y'all. And that's the way I'm killing with the filler, no beginner. When I'm on the track, it's jazz middle finger that we bring ya. Yo, all contenders get injured. We up on the freestyle, I'm putting in the blender. Yo, the way that we blend, I'll be up on the freestyle, don't need a pen. So I guess that we borrow, sometimes we lend. I guess this is the finish, so we just must end. Yeah, thank you guys. You're the best. Thank you for switching off the machine. Thank you.